Ma che ore sono? Sono le 9:30, ma cosa dobbiamo fare stasera? Ma non dovevamo andare a registrare stasera? Eh sì, ma ragazzi, qua è tutto chiuso. Vabbè, allora andiamo a bere. Andiamo a bere. Andiamo a bere la prossima volta, dai. Facciamo un free drink. Free drink. Un creative drink. Un creative drink. Attenzione, data l'assenza dei tre soliti conduttori, la puntata di oggi la gestisco io. Quindi da adesso, solo musica che piace a me. Cosa facciamo? Non c'è niente in giro. Perché non siamo entrati in quel posto? Perché lui ha detto c'è l'Interclub, no, l'Interclub no. L'Interclub no, perché lui non è lui è international. Lui è internet. Sono internet. Internet. Free drink. Un po' di news. Microsoft termina la produzione di Zune, il lettore MP3, che doveva far concorrenza a Tyrod, l'ultimo esemplare venduto in Canada nel 2009, consegnata una targa commemorativa. rilasciato nome 3 beta 2, in attesa della versione stabile il 6 aprile, frizzata l'interfaccia utente, tolti i tasti massimizza e minimizza, per semplificare la vita all'utente, da Cupertino commentano, eravamo indecisi se toglierli anche noi, o rimuovere del tutto l'ultimo tasto dal mouse, Microsoft intanto pensa di inserirli in un sottomenu di un sottomenu. È stato rilasciato Internet Explorer 9, la nuova versione del browser di Microsoft dispone di un nuovo motore JavaScript chiamato Chakra, che lo rende decisamente più performante della versione 8. Il nuovo browser sfrutta l'accelerazione hardware per renderizzare le pagine attraverso Direct 2D e il nuovo Direct Drive. Questo rende il browser incompatibile con Windows XP. Finalmente compare il supporto agli standard web HTML5, CSS3, SVG. Il commento degli utenti Windows 98, Internet Explorer cosa? Microsoft stessa ha lanciato una campagna per l'aggiornamento del browser, parlando di maggiori prestazioni, maggiore compatibilità e maggiore sicurezza. Io che sono malizioso, vedo un possibile collegamento tra questa improvvisa attenzione al browser e il fatto che sarà necessario aggiornare a Windows 7. Ma io sono solo un computer. Con questo io ho concluso, appuntamento alla prossima puntata, se i tre riescono a trovare la strada di casa. Ah, ma dov'è che stiamo andando alla fine? Stiamo andando. Ma io andrei da... andiamo là? Andiamo... c'è il Drago Verde a casa di Fabio. Il Drago Verde? C'è il Drago Verde? Il Drago Verde? È un... come quello che c'è a Como in piazza. Il Drago Verde? Il Drago Verde. Posso che ti va bere, di bello, di brutto. Ti beve di brutto, ma... Sì, sì. E poi costa pochissimo. A Garganella. No, costa non mi piace. Costa pochissimo il Drago Verde. Il Drago Verde. Non mi piace il nome di quel posto. Tak.